GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sempre più difficile trovare manodopera e le imprese si rivolgono sempre più spesso agli stranieri. Un'azienda artigiana del Friuli ha bussato anche alla porta della caserma Cavarzerani, centro di raccolta dei migranti. La Fincantieri dell'era Fogliero si presenta agli investitori con numeri in crescita e un robusto portafoglio ordini che racchiude 89 navi. Crescono i volumi anche per il settore delle crociere. Domani mattina nel Duomo di Udine i funerali del pilota delle Frecce Tricolori Alessio Gersi, morto a 34 anni in un incidente aereo avvenuto 10 giorni fa a Lusevera. Alla cerimonia tutta la pattuglia acrobatica. Il Partito Democratico va all'attacco dell'amministrazione comunale e convoca una conferenza stampa per indicare quelle che a dire del partito sono tutte le mancanze dell'ultima era di piazza dal Porto Vecchio ai lavori pubblici. Friuli Venezia Giulia al settimo posto nella classifica delle regioni amiche delle mamme. Siamo in testa per numero di centri antiviolenza ma solamente al 17° posto per rappresentanza femminile nelle istituzioni. Presentato a Trieste il Festival Sabir, spazio di riflessione sulle culture mediterranee nei luoghi simbolo dell'Europa. Libertà di movimento il titolo scelto per la 9ª edizione che si apre domani. Un'escursione di un'ora alla scoperta del Noncello, l'iniziativa per riavvicinare la città al suo fiume che ha visto l'adesione di centinaia di ragazzi delle scuole elementari e medie. Ultimo concerto ieri per la stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, di scena uno dei pianisti più celebrati del panorama internazionale con uno dei concerti più famosi del repertorio. Le 12:32, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina ed Eva Ciuc. La ricerca della manodopera per le aziende è diventata un'impresa sempre più difficile. Molti imprenditori assumono e prima ancora formano personale straniero. Vi raccontiamo quello che ha fatto un'impresa artigiana friulana che si è rivolta anche alla caserma Cavarzerani di Udine, che ospita tanti migranti in arrivo in regione. Sentiamo. Da dove viene? Da Pakistan. Arrivato a piedi. Dalla rotta balcanica? Sì. Che lavoro faceva in Pakistan? Idraulico e elettricista. Sono rumeno, faccio l'idraulico. Sapevo di già, ho lavorato anche prima e naturalmente qui ho appreso delle altre esperienze. Li troviamo nel piazzale dell'impresa di impianti elettrici e termoidraulici di Pradamano, dove sono impiegati intenti a preparare ciascuno il proprio furgone con attrezzi e materiali prima di partire per i cantieri. Lei da dove viene? Palestina, della striscia di Gaza, l'elettricista. Sono arrivato piccolo, avevo 14 anni, ho preso il diploma e sono iniziato a lavorare. Romania. Quanti anni? 23. Elettricista. È pagato bene? Molto bene. Perché tanti giovani, secondo lei, fanno fatica a fare questo mestiere? Ma più che giovani possiamo dire che sono i datori che un po' chiedono tanto e offrono poco. Diciamo che qui per adesso è l'offerta migliore. Malì, Mohamed, Dorin, Andrei sono la manodopera straniera richiestissima dalle tante aziende del settore elettrico e termoidraulico a corto di personale. Il loro titolare, Daniele Nonino, a capo di un'impresa da oltre 4 milioni e mezzo di fatturato l'anno e circa 40 dipendenti, spiega che sono un quarto delle sue maestranze. Per trovarle ha impiegato 2 anni di tempo, ma ha comunque dovuto investire di tasca propria per formarle. Alcune abbiamo cercate nella Cavarzerani, poi con il passaparola e con le agenzie interinali, ma tutte le maestranze che attualmente troviamo sono tutte quante di natura straniera. Noi le selezioniamo in base alla loro buona volontà. Ne abbiamo trovati tanti, però ottenuti pochi, purtroppo, perché non sono formati. Questo non vuol dire che non si possa avere personale straniero. Lo formiamo noi, in tutti i sensi, dalla lingua fino ad arrivare all'aspetto tecnico. La ricerca di personale nella sua azienda è sempre aperta. Coi prossimi pensionamenti serve subito ricambio. Sul piatto ci sono contratti a tempo indeterminato da 1.300-1.600 euro per le figure base a oltre 2.000 euro per gli specializzati. Ancora Nonino. Solo per mantenere la pianta organica ci servirebbero almeno 4 persone. Però l'obiettivo è di arrivare a 6-8 persone, in quanto in questo momento abbiamo molte commesse a cui non vogliamo rinunciare, quindi ci serve molto personale. Pradamano, Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Crescono i ricavi di Fincantieri, mentre il settore delle crociere nel mondo riprende fiato dopo la pandemia, facendo ben sperare per le commesse che potrebbero arrivare a Monfalcone. Ieri l'approvazione della trimestrale da parte del CDA, oggi la presentazione del piano industriale. Il servizio non è ancora pronto, andiamo al successivo e parliamo di politica, perché a Trieste gli esponenti locali del Partito Democratico hanno convocato questa mattina una conferenza stampa per denunciare ritardi ritardi e mancanze dell'amministrazione comunale, critiche a 360 gradi dal Porto Vecchio ai lavori pubblici all'ambito sociosanitario. Sentiamo. Preoccupazione per la scarsa capacità dell'amministrazione comunale di dare risposte ai problemi aperti è quella espressa da una rappresentanza del gruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale di Trieste in una conferenza stampa nella quale hanno denunciato l'immobilismo della giunta paralizzata, è stato detto, dalle liti interne alla maggioranza e dalle continue assenze dei due assessori Sandra Savino e Nicole Matteoni impegnate a Roma in veste rispettivamente di sottosegretaria all'economia e deputata. Molte le questioni sollevate dagli esponenti del PD, dai continui ritardi nella realizzazione di opere come il tram di Opicina, la fiera, la piscina terapeutica, la galleria Foraggi, alla messa in sicurezza del ponte sul canale di Ponte Rosso, passando per i problemi legati alla riqualificazione del Porto Vecchio, dove mancano del tutto gli attesi investimenti privati, e per l'assenza di un piano organico di promozione turistica. Altro tema, affermano i democratici, è quello della sanità, con la regione che sta sistematicamente discriminando l'area di Trieste, come dimostrano il piano di accorpamento dei consultori e la situazione sempre più difficile dell'ospedale di Catinara, senza reazioni da parte della giunta comunale, che appare, concludono i consiglieri del PD, sempre più staccata da una città in cui continuano a nascere comitati civici spontanei che chiedono di affrontare i problemi in sospeso. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. È arrivato il servizio su Fincantieri, sentiamo i risultati della trimestrale e la presentazione del piano industriale. Fincantieri a Milano si presenta agli investitori con i numeri del primo trimestre e il piano industriale 2023-2027. È il primo appuntamento con il mercato sotto la guida di Pier Roberto Folgiero, amministratore delegato della società. Il primo trimestre del 2023 ha confermato un aumento dei ricavi del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, pari a 1 miliardo e 764 milioni di euro, sottolinea Folgiero. Nell'area delle navi da crociera è stato registrato un incremento dei volumi di produzione. Ottima la performance dal settore offshore e navi speciali, con 238 milioni di euro di ricavi, pari a un incremento del 31%. Nei primi mesi dell'anno sono state avviate una serie di iniziative volte ad assicurare gli obiettivi del piano industriale, tra queste le misure che puntano a digitalizzare e ad incrementare l'efficienza produttiva dei cantieri e all'ottimizzazione dei costi e delle spese generali, oltre a quelle per mettere in sicurezza l'area delle infrastrutture. La performance operativa, conclude Folgiero, attesa per l'anno, permetterà di consolidare i ricavi e la marginalità, grazie anche ad un portafoglio ordini molto robusto, 89 navi per le commesse cruise, con un'acquisizione ordini di 900 milioni di euro rispetto ai 500 milioni del primo trimestre 2022. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si svolgeranno domani alle 10.30 nel Duomo di Udine i funerali del pilota delle Frecce Tricolori, Alessio Gersi, morto a 34 anni in un incidente aereo avvenuto 10 giorni fa a Lusevera. La lunga attesa prima del rilascio del nulla osta alla sepoltura da parte della Procura della Repubblica è stata determinata dal completamento degli esami sul DNA delle due vittime che nello schianto erano rimaste carbonizzate. Assieme all'ufficiale delle Frecce è morto anche il manager Sante Ciao. Ai funerali di Gersi, Pony 5 della pattuglia acrobatica nazionale parteciperanno tutti gli altri componenti delle Frecce e i vertici dell'aeronautica militare. È morto a quasi 80 anni Tiziano Venier, fu presidente della provincia di Udine dal 1985 al 1994 come esponente della Democrazia Cristiana, il partito in cui militò a lungo condividendo importanti esperienze in un momento di crescita e sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Il cordoglio, tra gli altri, del presidente della regione Fedriga, che ricorda come Venier, mostrando di saper guardare avanti, si impegnò accanto a istituzioni e categorie economiche per sviluppare proficue relazioni di collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia e i paesi dell'area balcanica. In occasione della festa della mamma, che si celebra il 14 maggio, Save the Children ha diffuso una graduatoria delle regioni italiane più a misura di mamme, una classifica che tiene conto dei parametri più diversi. Vediamo come si colloca il Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia al settimo posto nella classifica delle regioni amiche delle mamme, contenuta nel rapporto di Save the Children, le equilibriste, la maternità in Italia 2023 e guidata dalla provincia autonoma di Bolzano. La regione è infatti prima per presenza di centri antiviolenza, ma solamente 17ª per rappresentanza femminile nelle istituzioni. Il rapporto è stato diffuso in vista della festa della mamma e traccia un bilancio aggiornato delle molte sfide che le donne in Italia devono affrontare quando diventano mamme, stilando una classifica in base alle condizioni più o meno favorevoli. La fotografia che scatta della regione alterna luci e ombre. Le buone notizie arrivano appunto soprattutto dal contrasto alla violenza, dove il Friuli Venezia Giulia guida la classifica che tiene conto della presenza di centri e case rifugio. Ma è anche sesto per servizi offerti alle mamme e ai loro bambini, come asili nido, mense scolastiche, tempo pieno, e ottavo per la dimensione lavoro, che premia le regioni nelle quali per le madri è più facile trovare un impiego, non subire riduzioni di orario non volontarie o mantenere il posto dopo la nascita di un figlio. Note dolenti invece sono la dimensione salute e quella della soddisfazione soggettiva, con il 12° posto in classifica e il 17° posto per la rappresentanza, ossia la percentuale di donne in organi politici a livello locale. 10° piazzamento ex aequo con la Valle d'Aosta, infine per la demografia, poco al di sopra del valore di riferimento nazionale. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora il meteo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, Trieste 14 gradi, Gorizia 15, Udine, Pordenone 14,5, Tolmezzo 12, Tarvisio 11,5, Forni di Sopra 8, Sappada 7, Piancavallo 6,5, Monte Zoncolan 2,5, Monte Lussari 2, Grado e Lignano 14. Le previsioni oggi pomeriggio, cielo coperto con piogge diffuse persistenti che saranno da intense ad abbondanti sulla fascia occidentale, in genere abbondanti a est. Neve a partire da 1700-1800 metri circa, soffierà moderata sulla costa e sul Carso. Temperature massime in deciso calo. Domani cielo coperto con piogge diffuse persistenti che saranno intense a ovest, da abbondanti a intense a est. Nel pomeriggio su pianura e costa non si esclude qualche rovescio temporale. Neve abbondante in quota sopra i 1600-1700 metri circa. Sulla fascia occidentale soffierà vento da nord moderato, su Alpi e Prealpi Giulie in quota vento da nord-est sostenuto, su Carso e Trieste bora sostenuta. Al via la seconda edizione del Festival del Cambiamento, che si svolge oggi a Gorizia e domani a Trieste. 30 tra esperti, politici e manager da tutto il mondo si confrontano in dibattiti e approfondimenti sul tema della globalizzazione, della sostenibilità, sui nuovi stili di vita, lavoro e consumo, scienza, transizione digitale e intelligenza artificiale. Si comincia alle 14 a Gorizia nella Sala Verdi di Palazzo De Bassa con l'impatto per l'Italia del cambiamento degli equilibri mondiali, per passare poi al tema del cambiamento nel lavoro in un mondo sempre più complesso. E ora andiamo a Udine, nell'ex prefettura, trasformata nel cuore organizzativo della Dunata degli Alpini, adunata che prende il via domani e che durerà fino a domenica, quando ci sarà la sfilata. Ad assistere anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Siamo nel centro operativo organizzativo della Dunata di Udine, nella sede che è stata della prefettura in via Piave, qui in questo palazzo. Due piani sono riservati proprio all'Associazione Nazionale Alpini, che sta mettendo a punto gli ultimi dettagli della dunata. Le persone arriveranno soprattutto domani, ma già da qualche giorno ci sono le figure chiave, come il capo organizzatore Carlo Macali, a cui chiediamo come ci si sta avvicinando a questo momento. Da tempo ormai i piani sono stati tutti elaborati, siamo alle fasi finali, sta accedendo il personale che serve sia per la parte logistica, che per la maggior parte è già stata completata, il personale che serve per la sicurezza, stiamo dettagliando le modalità operative con chi ha redatto i piani di sicurezza e chiudendo le varie fasi del cerimoniale nostro nei vari giorni in cui la dunata si svolge. Qual è la caratteristica di Udine? Qual è stata la cosa un po' più difficile da sistemare? Udine è una città dal punto di vista geografico abbastanza chiusa, nel senso che ha un centro storico molto concentrato, con strade e piazze non particolarmente grandi, in cui poi ovviamente la gente andrà a concentrarsi. La viabilità e l'accesso alla città era un punto abbastanza difficoltoso, ci sono tutti gli hub di arrivo dei pullman e dovremmo aver risolto anche questo con un grosso campo di parcheggio al campo volo di Campoformido per tutte le auto, che arriva a ospitare circa 13.000 posti auto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Studenti di Pordenone in gita sul Noncello alla scoperta del fiume che ha dato il nome alla città. Il vecchio nome del fiume era infatti Naone, da qui Pordenone. Un'escursione di circa un'ora alla scoperta del Noncello, l'iniziativa per riavvicinare la città al suo fiume, organizzata dall'Associazione Gommonauti Pordenonesi e Idrogea in collaborazione con il Comune di Pordenone, ha raccolto 770 adesioni tra le scuole elementari e medie della città. Gaetano Solarino è il presidente dell'Associazione Gommonauti Pordenonesi. Dall'imbarcadero andremo fino alla dogana di Manoncello e in questo percorso di discesa e di risalita questi ragazzi avranno modo di vivere e di godere delle bellezze di questo fiume, bellezze naturali, fatti di flora, di fauna, di storia, di acqua che in questo momento non è che sia in abbondanza, siamo in penuria d'acqua. A bordo abbiamo una guida naturalistica che adesso spiegherà, racconterà un po' la storia di Pordenone, del fiume e di tutto quello che andremo a incontrare. Io mi auguro per loro che tra un'oretta, quando scenderanno da questo badello, abbiano riempito nel loro bagaglio notizie interessanti della città, del fiume che ha dato appunto nome a questa città. Intanto continuano le segnalazioni da parte di cittadini di schiume e odori all'altezza del depuratore della Burida. L'ARPA regionale fa sapere di aver effettuato l'ultimo controllo ufficiale a fine aprile senza rilevare anomalie. Legambiente Pordenone poi ha in programma un'uscita nell'area delle risorgive di Torre per monitorare lo stato di salute anche di quel tratto di fiume e organizzare una raccolta rifiuti. Pordenone. Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la decontaminazione dei siti inquinati, la Commissione europea sta finanziando il progetto coordinato da Area Science Park ed è nella sua fase sperimentale in alcune aree messe a disposizione dall'autorità portuale. Area Science Park è coordinatore progettuale del progetto europeo Poseidon per la decontaminazione dei suoli. Martina Terconi, tecnologa dell'Area Science Park. Ha supportato lo sviluppo di nuove tecnologie di decontaminazione di siti industriali dismessi altamente inquinati. Nello specifico si è andati a sviluppare soluzioni efficaci ed efficienti sia dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, con tecnologie in situ che permettono quindi di trattare i suoli direttamente sul posto, senza scavare il terreno e portarlo in impianti di trattamento. In particolare, attraverso lo strumento dell'appalto pubblico per commerciale, è stata lanciata una gara a livello europeo proprio per farsi sviluppare servizi di ricerca e sviluppo tecnologico per trovare tecnologie che siano in grado di decontaminare contemporaneamente sia contaminanti organici, quindi pensiamo alle frazioni pesanti degli idrocarburi del petrolio, sia metalli pesanti come arsenico e piombo. Il progetto è ormai nella fase conclusiva, sono stati già effettuati test su alcune aree messe a disposizione dall'autorità portuale, che è la stazione appaltante di questi servizi di ricerca, nonché partner di Poseidon. E ora si attendono i risultati delle due tecnologie finaliste. La prima, sviluppata da Teseco in un consorzio internazionale che vede peraltro anche il CNR tra gli enti di ricerca, è un processo chiamato Soilomic, per cui sono andati a studiare il DNA dei microrganismi presenti nel terreno, abbinato invece a tecniche di ingegneria ambientale, tipicamente di lavaggio del suolo. L'altra soluzione, chiamata ERASE, del consorzio HPC Italia, invece prevede l'inserimento di elettrodi nel suolo e la decontaminazione del suolo stesso grazie al campo elettrico indotto. Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Questa mattina la presentazione a Trieste del Festival Sabir, evento diffuso e spazio di riflessione sulle culture mediterranee nei luoghi simbolo dell'Europa, libertà di movimento, il titolo scelto per la nona edizione che si svolgerà da domani al 13 maggio. Sabir è promosso da ARCI insieme a Caritas Italiana, ACLI e CGL con la collaborazione di ASGI e Carta di Roma, con il patrocinio di RAI e del quotidiano Primorsky Dnevnik. Ma sentiamo Filippo Miraglia, responsabile dell'immigrazione dell'ARCI. Trieste è uno dei punti di arrivo principali in Europa della rotta balcanica, una città multiculturale che è il simbolo dell'Europa che vorremmo, governi oggi puntano a un'Europa dei muri e non ad un'Europa dei diritti e della solidarietà, e noi veniamo a Trieste per dire questo. Libertà di movimento è il titolo scelto per questa edizione del Festival Sabir. Cosa significa? Pensiamo che la libertà di movimento oggi sia la scelta giusta, a cui però l'Europa non tende, anzi tende esattamente al contrario, e quindi questo titolo l'abbiamo scelto proprio per dire che c'è un'Europa, c'è una società in Europa. Arriveranno a Trieste militanti, operatori, studiosi, giovani che arrivano da tutta Europa e da tutto il Mediterraneo per dire che la libertà di movimento è una scelta che guarda al futuro e non al passato, a un'idea di Europa chiusa che respinge il resto del mondo. Cosa significa Festival diffuso delle culture mediterranee? Sabir, la lingua che parlavano i marinai nel Mediterraneo fino all'inizio del Novecento, e noi vogliamo ricostruire questa lingua comune del Mediterraneo attraverso le culture del Mediterraneo. Significa quindi non solo riflessione e formazione, ma anche cultura, libri, musica, teatro, mostre. Noi pensiamo che la cultura del Mediterraneo, una lingua comune del Mediterraneo, si ricostruisca con la cultura. Ultimo concerto ieri per la stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, di scena uno dei pianisti più celebrati del panorama internazionale. Sono le prime note del terzo concerto di Rachmaninoff, diventato negli anni 90, grazie ad un film nominato all'Oscar che si chiamava Shine, il simbolo per eccellenza della difficoltà pianistica, e sono in pratica le uniche note di questa partitura che si possono guardare senza spaventarsi, almeno per quanto riguarda i comuni mortali, dei quali forse non fa parte Leifove Ansnes, protagonista del concerto che ha chiuso la stagione musicale del Giovanni da Udine. Nessun problema per lui a superare tutte le asperità tecniche disseminate da Rachmaninoff in tre quarti d'ora di musica, e oltre alla tecnica, potenza di suono, espressività, ricchezza di colori, tutto quel che ci si aspettava da questo pianista norvegese, ospite abituale delle principali sale da concerto del pianeta. Insieme ad Ansnes, la Royal Scottish National Orchestra, diretta da Thomas Ødegaard, a sua volta protagonista nella seconda parte del concerto di una prestazione di livello assoluto. In programma la decima sinfonia di Shostakovich, pagina complessa che richiede a sua volta un'abilità tecnica non indifferente ai singoli orchestrali. Un lavoro assolutamente di non facile ascolto, reso però in maniera coinvolgente dal complesso scozzese, e il pubblico di Udine ha risposto anche in questo caso con entusiasmo. Udine, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina ed Eva Ciucchi. In regia, per la parte tecnica, Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.